Sono cambiate le cose da ottobre, per te e per me, ma credo che in un maggio prossimo cresceranno con lo stesso slancio l'albero e la speranza. Otka Michlaski. 125 verde, una celeste. Era guardingo, era strano. Una targa di Milano, dobbiamo passare per il centro per andare via il più in fretta possibile. No, no, semplicemente per la prima volta io ho visto Wael avere paura. Porta Pia. E non credevo potessi averne, era una persona così allegra. Gli avevo detto vai via da Roma. Passiamo per via Tomacelli, è la via più breve. Era restato a Roma con me, con i suoi amici. Perché era qui che aveva deciso di rimanere. È tutto pronto. Penseranno ad un regolamento di conti tra terroristi. L'opera, la sua grande passione. Era partito alla volta di Roma insieme ad una compagnia tedesca per studiare l'opera. Arrivato a Roma, naturalmente l'opera non l'aveva mai studiato. Però a Roma c'era rimasto. Ricordo il giorno in cui ci hanno catturato. E a Via del Babuino c'era Mariuccia. Calabrese, piccola cicciottella. Un'affittacamere che giocava a scopone magnificamente. La base militare vicino Petah Tikva era la base dove ci addestravano. E poi in quella casa c'era Salvatore, giocavano a carte, bevevano il vino la sera, ridevano molto. È stato il primo posto che Wael a Roma ha trovato come casa. Ricordo esattamente come si piazza l'esplosivo. La guerra dei sei giorni, un amico, una macchina scassata, una corsa pazzesca per tutta l'Europa fino a casa sua solamente per vedere se fossero ancora vivi. Un edificio di 70 stanze esclusivamente per noi, un'equipe di 70 medici soltanto per noi. Non vedevo quasi mai gli altri, soltanto all'alba durante le esercitazioni di tiro e quelle fisiche. I pezzetti di carta, tutti diversi, messi uno vicino all'altro, per poter incartare un regalo. Questa era la maniera che avevano loro, gli arabi, per incartare un regalo. Una volta l'aveva fatto Alberto Moravia, che però poi il regalo quella sera non l'aveva più aperto. Lui c'era rimasto malissimo. Ci hanno catturato per colpa mia, ho avuto paura. Ci vuole precisione nell'usare un'arma da fuoco, è come nel balletto. Abbiamo esattamente bisogno di persone come lei, persone specializzate che si occupino di compiti specializzati. Silenzioso, taciturno, insopportabile, veramente taciturno al limite dell'insopportabile. Quando gli succedeva qualcosa non gli potevi parlare e poi disordinato, dimenticava di pagare le bollette, non riusciva mai a portare a termine nulla. Basta metterne esattamente quanto serve, non serve fare una strage, soltanto eliminare il bersaglio prestabilito. Ci insegnavano a sparare in ogni tipo di situazione. Mi sono fatta prendere dall'ansia. A un posto di blocco. Ci hanno catturato a un posto di blocco. Mahler. Perfettamente pilotato. Beethoven. Erano due grandi passioni. La sera che è morto, degli agenti che sono saliti in casa sua hanno trovato lo spartito della nona sinfonia di Mahler che aveva scambiato con un amico, con annotazioni, sottolineature. Hanno pensato che fossero messaggi in codice, che incolti. Beceri. Una volta riuscimmo a mettere dell'esplosivo dentro la cornetta di un telefono di casa, di un appartamento. A Nablus, esattamente dove abitava Wael da ragazzino, era arrivato il primo telefono, un'emozione incredibile. Ci consegnavano due pistole, una dovevamo saperla smontare e rimontare anche al buio. Aveva rischiato di diventare un ingegnere, un insegnante, poi per un periodo aveva fatto il ragioniere nel deserto in un ipotetico cantiere e si era messo lì a mangiare con gli operai, a dormire nelle tende con loro. Una squadra del Mossad specializzata catturata ad un posto di blocco. Esplose l'intera stanza, ricordo il fumo lungo la via, il fuoco, la gente che urlava e noi che scappavamo sulle piccole 125, verde, celeste. Gli aranceti di Giaffa. Andava in vacanza a Giaffa con la sua famiglia. Lo zio aveva delle piantagioni di aranci e lui diceva che la sera gli era impossibile dormire perché partivano le pompe di irrigazione e lui era ipnotizzato da quel rumore e dall'odore così forte di quegli agrumi che esalava. Il frastuono fu impressionante, scappammo via il prima possibile. Ricordo perfettamente come si silenzia un'arma da fuoco. E Viale Libia era così bella quando ci abitava lui. C'erano gli alberi d'aranci e non c'erano quelle macchine addirittura. A parte che mi obbligava a estenuanti camminate per Viale Libia perché diceva che poteva sentire lo stesso profumo d'aranci che sentiva da ragazzo. Ho avuto l'ansia e ho dato i documenti canadesi collegandoli all'ambasciata israeliana. Pensare che prima costruivo giocattoli, da giocattoli a esplosivo. Una sera l'ho invitato a cena, Del resto lo facevo spesso, cenavamo spesso insieme. Io avevo una casa piccolissima ed ero una pessima cuoca. Quelle due o tre cose che avevo imparato, però gliele facevo, magari a ripetizione, ma gliele facevo. E quella sera era toccato al pompelmo all'australiana. Allora era venuto a casa, avevamo chiacchierato, bevuto un po' di vino e avevo apparecchiato in modo carino. Nel momento in cui ho portato il pompelmo a tavola, Well ha cambiato umore, si è arrabbiato e ha detto: scusa, non ho più fame, vado via. Non gli ho fatto domande, perché Well non potevi fare domande, perché altrimenti si sarebbe arrabbiato, quindi l'ho lasciato sbollire. Dopo qualche giorno gli ho chiesto cosa fosse successo e lui mi ha detto: forse non te ne sei accorta, ma su quel pompelmo c'era il marchio di Israele. Fui richiamato dalla base militare in cui avevo prestato servizio. Entrai e un omino piccolo, seduto dietro una scrivania sormontata da una montagna di fogli, mi disse che avevo servito bene il mio paese ed ora c'erano altri modi per continuare a farlo. Io lì per lì non capii e rimasi in silenzio, ma le sue domande si fecero sempre più insistenti e di lì a pochi giorni mi cominciò a sottoporre una serie di test psicologici, fisici, fino a che dopo un paio di settimane dal nostro primo incontro fui trasferito in un edificio con 70 stanze, un edificio enorme dove sembravo esserci soltanto io e c'erano 70 medici a disposizione soltanto per me. Fui richiamata dalla base dove avevo prestato il servizio militare. Non è strano, da noi in Israele anche le donne fanno il servizio militare. Quello che mi sembrò strano invece fu che mi chiesero di servire ulteriormente il mio paese. Mi dissero che potevo essere utile a una causa fondamentale per la libertà del mio paese. Era un concetto che non mi apparteneva all'epoca, ero molto giovane, e mi dissero che avrei dovuto lasciare la mia famiglia. Dissi di no. Ho ferma in testa la perfetta immagine di mia moglie che si gira verso di me e mi chiede: quanto dovrai stare via? Io ero disarmato, non sapevo che cosa rispondere, lo chiesi a loro, quelli che dalla base militare avevano avuto ancora bisogno di me, dissero, e loro dissero che non si poteva prevedere, che bisognava andare via da Israele per diversi mesi, lavorare in Europa. Chiesi consiglio a mia madre e a mio padre. Mia madre era d'accordo, mio padre contrario, mia moglie era perplessa, mio figlio era ancora troppo piccolo per dire la sua, ma si trattava della libertà di tutto un paese, del popolo di Israele, così accettai. Capii a che cosa stavo andando incontro soltanto quando fui presentato ad un uomo in divisa che si presentò al me con il nome di Samir. Io sapevo benissimo che non poteva lamentarsi di quello che era Samir, ma la dimensione di quella menzogna, il mio nome, ero anche fidanzata, non volevo rinunciare a tutto questo, non me la sentii. C'era il mio nome di battesimo, si trattava diverse volte dei servizi segreti e loro diventarono sempre più insistenti. Mi avevano ripescato da un computer, da un elenco di nomi che loro avevano selezionato. Certo che sono disposto a rischiare tutto per la mia famiglia, mi disse, per il popolo di Israele, per tutte le famiglie di Israele è disposto. Chiesi che cosa dovessi fare, mi chiesero se avevo ancora con me quella pistola a cui avrei dovuto partecipare. Riuscirono a farmi sentire indispensabile, riuscirono a farmi capire una risposta a tutte quelle domande, a quelle domande del tipo: crede sia uccidere, crede sia giusto uccidere per la libertà e la salvezza di un popolo. E loro si aspettavano una risposta soltanto. Io ancora non ero pronto a dare quella risposta, non potevo ancora dare quella risposta, ma di lì a poco capii che l'unica risposta giusta per loro era sì. E alla fine accettai, perché in fondo il valore di una singola famiglia non è niente di fronte alla libertà di un popolo intero. Conoscevano il nome di mio padre, di mia madre, di mio figlio, di mia moglie e mi chiesero di combattere per il popolo di Israele. Non potevo rifiutare, così partii poche settimane dopo. Partii e appunto fui trasportato fuori da Israele. Loro mi avevano detto che avrei potuto continuare a vedere la mia famiglia, ma in realtà non fu così. Una volta fuori da Israele non avrei mai più rivisto la mia famiglia. Mi misero in mano una pistola. Una pistola dalla quale non mi separai mai più. Una Beretta 71 calibro 22 long rifle. La mia pistola. La mia pistola era completamente in acciaio, ad eccezione del fusto, che era in Ergal, e delle guancette che rivestivano il calcio, che erano in un materiale plastico antiurto. La mia beretta 71 era lunga 165 mm, alta 123, pesava 480 grammi. La potevo nascondere facilmente sotto la giacca, potevo facilmente tenerla in mano. E sì, anche se potevo facilmente tenerla in mano, il fatto che noi la utilizzassimo per scopi operativi non deve stupire, perché noi non siamo mai stati in guerra, noi non eravamo in guerra. A noi non occorreva un'arma che fosse in grado di colpire un bersaglio posto al di là di un riparo. A noi, come la chiamava il nostro addestratore John, occorreva semplicemente una pure assassination weapon. Un'arma cioè che fosse in grado di uccidere una persona alla distanza più ravvicinata e nel modo più silenzioso e rapido possibile. Silenzioso, questa era la parola chiave, perché il 22 Long Rifle è un calibro di pistola facilmente silenziabile. Inoltre, quello che ci hanno insegnato da subito è che la vera importanza di usare questo calibro è che usa pallottole senza incamiciatura. L'incamiciatura non è altro che un lamierino di rame sulla quale si imprime una specie di impronta, una striatura, al momento della fuoriuscita dalla canna della pistola. Senza quell'incamiciatura non si produce un'impronta, e senza quell'impronta il lavoro dei periti balistici è più difficile, perché non possono risalire all'arma, e se non possono risalire all'arma non possono risalire a me. Tieni, ecco il passaporto canadese. Perché canadese? Lo vedi, non hanno la foto. In quegli anni i passaporti canadesi non avevano fotografie, quindi erano più facilmente falsificabili. Nessun palestinese doveva sentirsi tranquillo in nessun paese del mondo. Mi chiamo Harari, Michael Harari. Suscitare il timore di Dio. Per questo l'operazione fu chiamata Wrath of God. Un nome in codice, Mike, ma il mio nome completo è Harari, Michael Harari. Sono un mercenario, lavoro per soldi. Fu dopo la strage degli atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco che dal primo ministro Golda Meir partì un ordine tassativo. Annientare. Golda Meir, il primo ministro, lanciò quest'ordine e si trattava soltanto di eseguirlo nel minor tempo possibile e nella maniera più effettiva, più efficace. Così affidarono a me la direzione delle operazioni, perché lavoravo da molto tempo già nel Mossad. Chi doveva annientare? I Mechablin, i terroristi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ero a Roma, riportavo gli ebrei in Israele. Poi negli anni 70 passai allo Shin Bet e poco dopo mi reclutò il Mossad. Per fare questo il Mossad aveva bisogno di istituire una squadra speciale. Il compito fu affidato a Mike. Parlavo diverse lingue, avevo lavorato già in Nicaragua, in Sudan, con Noriega, con Pablo Escobar, sempre per conto terzi, si capisce. Mike lo chiamavamo noi, ma sapete che si tratta Harari. Di Michael Harari. Michael Harari, non compare mai il mio nome perché non si sapeva mai con chi lavorassi. Lavoravo solo per soldi, sapevo esattamente cosa mi spettasse e cosa no. Di questo avevano bisogno e questo facevo. Ero con il generale Zamir a Roma a organizzare le squadre d'assalto dopo l'attentato alle Olimpiadi di Monaco. Abbiamo bisogno di 15 persone divise in 5 squadre. Aleph. Due agenti. Due killer, il cui solo compito è quello di uccidere. Beth. Altre due persone. Due agenti che devono fare da guardia proteggendolo al gruppo Aleph. Het. Una squadra di copertura. Due persone che si occupavano di affittare le auto, gli appartamenti e tutto quello che serviva alla missione. Poi serve una squadra più numerosa, forse 6, 7, 8 agenti. Achin, 6 o 8 agenti che devono pedinare i bersagli e organizzare le vie di fuga agli altri gruppi. Infine, ovviamente serve una squadra che si occupi di trovare, localizzare e soprattutto proteggere una base. E questo è il gruppo Hof. Come può una società che ha dato al mondo la nona sinfonia di Beethoven permettere tutto questo? Come possiamo scappare il più in fretta possibile? Dobbiamo passare per il centro, è necessario. Come può una società che ha conosciuto la bellezza, l'arte, il sublime permettere che si muoia, si versi del sangue? Non possiamo andare via con due senza macchine. Senza pietà? Lasciamone una qui in via Bressanone e fuggiamo a piedi. È assolutamente incredibile, mi diceva lui. Ma poi, in questo caso, well, questo me lo ripeteva sempre, in questo caso la cosa più drammatica è che ci sono due popoli e l'unico vendica i propri torti sull'altro. E la cosa ancora più grave è che nella lingua di uno di questi due popoli la parola antisemitismo non esiste nemmeno. L'approvvigionamento delle armi da parte dei servizi segreti avviene in maniera diversa rispetto a quanto non accade per i servizi militari. Noi infatti non abbiamo bisogno di passare attraverso la trafila burocratica degli appalti, dei permessi, possiamo direttamente rivolgerci anche al mercato civile. La mia specializzazione sono le armi da fuoco. Infatti mi occupavo dell'addestramento, almeno in una prima fase. Ci vuole precisione nel saper usare un'arma da fuoco, è come nel balletto, si impara un passo alla volta. Noi del Mossad utilizziamo delle pallottole a punta e piatte. Io insegnavo ai cazza, agli agenti speciali, ad utilizzare le armi da fuoco anche nelle situazioni più disparate, anche al ristorante dove dovevano trovare riparo dietro a un tavolo dopo averlo ribaltato con un calcio. Spesso però io facevo utilizzare le dum dum, che sono delle pallottole cave e con la punta deformabile. Insegnavo loro a smontare e rimontare l'arma anche al buio, quindi li facevo esercitare sempre ad occhi chiusi. La caratteristica delle dum dum è che, avendo appunto la punta deformabile, significa che si apre a fiore e quando colpisce il bersaglio procura delle ferite molto più gravi. Naturalmente insegnavo loro anche dei piccoli accorgimenti tecnici, come ad esempio quello di piazzare all'interno della fodera della giacca dei piombini in modo che al momento dell'estrazione dell'arma la falda della giacca oscillasse in modo corretto. I cazzo tengono la pistola sul fianco nei pantaloni, alcuni usano la fondina, altri no. Il modo più sicuro per sparare è quello di abbassarsi in modo da offrire il minor bersaglio possibile, poi estrarre l'arma e scaricare tutto il caricatore sulla vittima. Quando la vittima è a terra ci si deve avvicinare, accostare la canna alla tempia e sparare ancora una volta. Parigi, 5 aprile 1973, abbiamo ucciso Basil Al-Kubaisi, professore di diritto, docente, insegnava diritto all'Università Americana di Beirut. L'abbiamo aspettato fuori dal Caffè della Paix e l'abbiamo raggiunto con 12 colpi calibro 22. 1, 2 colpi. Parigi, 4 ottobre 1972. Abbiamo fatto esplodere una bomba alla libreria palestinese. L'attentato venne rivendicato dal gruppo Masada. 3, 4. Beirut, 8 luglio 1972. Abbiamo ucciso Ghassan Kanafani, con lui muore la nipote. 5. Parigi, 28 giugno 73. Abbiamo ucciso Mohamed Boudia. È saltato in aria con tutta l'automobile, un esplosivo radiocomandato. 6, 7 morti. Nicosia, 25 gennaio 1973. Abbiamo ucciso Hussein Abad al-Cir con un ordigno esplosivo nascosto nella sua camera d'albergo. 8. 21 luglio 1973, Lillehammer, abbiamo ucciso Ahmed Bouchiki, un cameriere algerino con passaporto marocchino. 9. Parigi. 10. 8 dicembre 1972, abbiamo ucciso Mahmoud El Amchari, ho piazzato dell'esplosivo nella cornetta del suo telefono di casa. Non è morto subito, ma a causa delle ferite riportate nel gennaio 73. 11, 12, 16 ottobre 1972, Roma. A Roma era bella quella sera, era calda. E io e Welch eravamo visti, eravamo stati insieme, chiacchierato, pranzato, eravamo stati bene. E poi si era fatto tardi e aveva deciso di andarsene a casa. Gli ho detto, l'avrei accompagnato, mi ha detto no, vado da solo. Si è avviato verso casa col suo cappotto scuro, sempre lo stesso. Abitava a Piazza Annibaliano. Era andato davanti al portone, è salito su per la vecchia portineria, attraversato il cortile, è entrato lì alla scala C, la sua scala, e davanti all'ascensore, il 16 ottobre 1972, lo hanno ucciso con 12 colpi. Poveretto. Direte poveretto, Wells Whiter era un terrorista. Un intellettuale. Un semplice intellettuale, un traduttore. Nessuno ha mai fatto il suo nome. Non è comparso su nessun giornale. Nessuno che parlasse di lui come di un terrorista. Noi lo sapevamo bene, gli stavamo dietro da settimane, appostamenti, pedinamenti, sapevamo tutto nel dettaglio. Ma era un intellettuale puro, uno incapace di ricordarsi della bolletta del telefono, gliel'avranno staccata decine di volte. L'Italia era perfettamente a conoscenza dei movimenti terroristici di Settembre Nero, Sono apparsi anche degli articoli su un vostro giornale. Sì, sul giornale nazionale italiano, sul Corriere della Sera. Si parlava di quest'uomo dall'atteggiamento nordico, tranquillo, calmo, un terrorista. La stampa pilotata a favore di chi aveva deciso di far passare una vera e propria strage di uomini pensanti per una reazione. 11 atleti israeliani massacrati durante le Olimpiadi di Monaco, dovevamo reagire in qualche modo. Rea Schmid la chiamavano. Annientare. Distruggere. 7 persone, elementi pensanti. E sì, perché pensare è molto più pericoloso che agire. Non si trattava soltanto di far sparire quelli che mettevano le bombe, che facevano saltare in aria palazzi, piuttosto di far fuori, di levare di mezzo le menti che erano al vertice della piramide del movimento palestinese. Le mille e una notte, mi diceva, sono un testo fondamentale. Io devo assolutamente riuscire a tradurre questo testo. In queste pagine, mi diceva, tu capisci, in queste pagine non c'è assolutamente cenno di odio tra gli arabi e gli ebrei. Soltanto a Roma c'erano 4 appartamenti rifugio dove venivano nascoste delle armi. Si è detto di tutto di Wael, si è detto veramente tutto. Già il fatto che fosse arrivato a Perugia, beh, Perugia è l'università per stranieri in Italia. Naturalmente era andato lì, aveva studiato l'italiano. Ecco, il suo stare lì era diventato pericoloso, agitatore di giovani menti di sinistra. Si sapeva che il centro di smistamento e reclutamento di nuovi terroristi era l'Università di Perugia. Erano state organizzate delle squadre d'assalto dislocate in tutta Europa. Secondo i giornali capivamo chi dovevamo levare di mezzo. I giornali sono stati pilotati e le date non coincidono. Ma ancora oggi si racconta questa menzogna. C'è un film di Spielberg, un recente film in cui sono state cambiate tutte le date. Si trattava soltanto di reagire a un torto che non avremmo mai potuto mandare giù così. Ma assolutamente. Quell'articolo in cui si parla di Wael Suaiter come la mente fomentatrice di Settembre Nero, il capo carismatico, è un articolo del 15 giugno del 72. Pensateci bene, Ghassan Kanafani viene ucciso, ed è un semplice poeta Ghassan Kanafani, viene ucciso un mese dopo, era l'8 luglio, e Wael Suaiter viene ucciso esattamente un mese dopo la strage degli atleti di Monaco. Questa non è una reazione, questa è una premeditazione. Un uomo tranquillo, un poeta, un traduttore, un uomo di cultura. Ero giovane, io volevo militare, volevo fare qualcosa, lui mi ha detto va bene, certo, allora leggi e traduci perché questo è il tuo compito. Annientare, un compito preciso da portare a termine il prima possibile. Ad ogni modo è un morto palestinese, quindi fate di lui quel che volete. E poi le informazioni sono assolutamente precise, perché vengono dagli interrogatori fatti a dei terroristi palestinesi di Al-Fatah che ha catturato Israele. Informazioni che poi la stessa Israele ha mandato a diversi paesi europei, tra cui l'Italia. Era il cugino di Arafat, anche questo era diventato un crimine. Glorificatelo, dite di lui quel che volete. Quello che interessa a noi è che era un terrorista e che l'abbiamo levato di mezzo, abbiamo fatto soltanto il nostro dovere. Lillehammer, 21 luglio 1973, il nostro obiettivo è Hassan Salameh. Il principe rosso, lo chiamano così, è uno dei terroristi più ricercati del momento, è una missione molto molto delicata. Avevamo studiato ogni sua mossa, sapevamo che quella sera sarebbe andato al cinema con la sua ragazza, quindi lo aspettavamo fuori dal cinema. Il gruppo Bet aspetta in macchina davanti al cinema e il bersaglio esce assieme alla ragazza incinta. Naturalmente lo abbiamo seguito a fari spenti, abbiamo aspettato sull'autobus. Abbiamo aspettato che arrivasse a pochi metri da casa sua. Fanno poche fermate, poi scendono, l'autobus riparte, il gruppo Aleph è già pronto. Siamo scesi dalla macchina e lo abbiamo freddato. Sentiamo 14 colpi netti e poi il gruppo Aleph si avvia velocemente verso le macchine. Allora, il nostro obiettivo era quello di rimportare le macchine a Oslo. Riportiamo semplicemente le macchine all'aeroporto, dove le abbiamo noleggiate, mantenete la calma. Dovevamo mantenere la calma, ma purtroppo poi, mentre intraprendiamo la nostra corsa verso Oslo, succede qualcosa. La radio comunica. La radio, sentite la radio, stanno parlando di noi, com'è possibile? La radio comunicò l'omicidio, ma semplicemente perché a Lillehammer non accadeva un omicidio da 40 anni, era esclusivamente un fatto locale, dovevamo stare tranquilli e riportare le nostre macchine a Oslo. C'è qualcosa che non va, controlla il nome. Abbiamo sbagliato bersaglio. Avevamo sbagliato bersaglio. Abbiamo davvero ucciso l'uomo sbagliato. Avevamo ucciso Ahmed Bouchiki, un cameriere algerino con passaporto marocchino, molto somigliante al principe rosso. State calmi. E state. Per favore. No, niente. Soltanto stiamo calmi. Non riuscimmo riportiamo le a ristabilire la calma. Addirittura la macchina davanti alla nostra investì un ciclista. La macchina davanti accelera, acceleriamo anche noi, quando poi in fondo delle luci intermittenti. Che sta succedendo? Una macchina della polizia. Era è un posto semplicemente di un posto di blocco, un semplice posto di blocco, controllo documenti, le solite cose di routine. Non dovevamo preoccuparci, state non calmi. Poteva essere lì per noi. Ecco i passaporti, sono canadesi, vede? Mariana, l'altra macchina. Se avete dei problemi posso darvi un numero di telefono. Ecco, un numero di telefono, è un nostro contatto all'ambasciata israeliana. All'ambasciata israeliana, ha dato il contatto dell'ambasciata israeliana con un passaporto canadese. Lasciano quella macchina e vengono dalla nostra e cominciano a fare a me un sacco di domande. E se sapevo di questo, di quello, di questo, di quello. Dan, nell'altra macchina comincia ad avere un attacco di claustrofobia. Non capisco perché ce l'avete con me. Io posso darvi un numero di telefono, ecco. Prendete questo numero, segnatelo, è di Harari. Harari, Michael Harari, un ricercato internazionale, ha dato il suo numero privato a Tel Aviv, sempre con dei passaporti canadesi. Ho avuto un terribile attacco di claustrofobia. Un agente del Mossad claustrofobico e l'altra in preda ad attacchi di panico. E pensare che ci avevano scelti loro, dovevano saperlo, non potevano non saperlo dopo tutti i test che ci avevano fatto in quell'ospedale con 70 stanze. Apra la bocca. Ah. Con 70 stanze, 70 medici soltanto lì per noi, non potevano non saperlo. Ci hanno sottoposto ad ogni tipo di test. E dica avevano... 33. 33. Ci avevano addirittura. Tossisca. Ci avevano addirittura preso dai campi di concentramento perché sapevano che dopo aver vissuto la paura eravamo in grado di riprodurla e non potevano non sapere di questi nostri difetti di salute. Sapevano tutto, non potevano non sapere questo. In quell'ospedale con 70 stanze, quel lungo corridoio 69, 70. C'erano addirittura i numeri sulle porte. Ogni particolare era ricreato nella maggiore precisione. Avevano in questo enorme magazzino ricostruito un percorso che somigliava in tutto e per tutto a quegli alberghi che si trovano in tutte le capitali europee, Londra, Parigi, Barcellona. Si arriva e si percorre un lungo corridoio, perfetto in ogni particolare, con i numeri incisi sulle porte delle stanze, le maniglie di ottone, la moquette morbida che non fa rumore quando cammini, le pareti ricoperte da questa carta da parati floreale e i posaceneri accanto alle porte che quasi senti l'odore di cicca appena spenta. Il compito era questo, avevamo nella mano sinistra stretta una valigetta, una piccola 24 ore, in cui, ci dicevano gli addestratori, sono contenuti dei documenti importantissimi. Il compito è semplicemente portare la valigetta intatta alla fine del corridoio. Nella destra, che quasi non la sentivamo per quanto era leggera, meno di mezzo chilo, avevamo quella beretta, quella con cui andavamo a dormire la notte, la beretta calibro 22, modello 71. Bisognava stare attenti perché il corridoio operava delle svolte, c'erano diversi angoli bui, angoli dai quali uscivano improvvisamente delle sagome di cartone che rappresentavano i nemici da sconfiggere. Allora bisognava buttarsi a terra, proteggere la valigetta e scaricare tutto il caricatore sui bersagli di cartone, poi avvicinarsi e sparare ancora una volta per assicurarsi che fosse davvero morto. 16 ottobre 1972. A Roma ottobre è bello, c'è ancora caldo. E quella sera avevo invitato Wael a cena, come spesso facevo. Allora avevo preparato tutta la tavola carina, il vino. È stato tutto organizzato. Il mi gruppo ero Berti. Anche adoperata in una cena un po' più elaborata. Fermo nella piazza, il gruppo Aleph dentro. Sono del gruppo Aleph e aspetto l'obiettivo nello stanzino adiacente all'ascensore della scala C. Era allegro, era stato dal medico quella sera, gli aveva portato delle radiografie. Il dottore aveva detto, guardi Zweiter, stia tranquillo, lei camperà 100 anni. E questa cosa l'aveva fatto divertire tantissimo. Sono del gruppo Aleph e sono nascosta nella scala B. Si tratta soltanto di seguire dei segnali. Sono fermo in piazza Annibaliano, è notte e tra poco dovrebbero arrivare i due italiani che precedono il bersaglio di circa 2 minuti. Aveva anche provato a farmi giocare a non so quale gioco di carte che io detesto, ma non c'era riuscito quella sera. Dopo cena abbiamo chiacchierato un po', poi si era fatto veramente tardi, allora gli ho detto ti accompagno. Lui mi ha detto no, preferisco fare 2 passi, vado da solo. Eccoli. Ha messo il cappotto che indossava sempre. Lo potevi riconoscere da lontano perché portava gli stessi vestiti almeno per un anno intero. Circa 2 minuti dopo compare il bersaglio vestito completamente di nero, un cappotto nero lungo fino alle ginocchia. Sta via verso Piazza Annibaliano, dove non abitava. Si ferma al portone, sembra che non voglia entrare. È arrivato davanti al portone e poi si ricorda che voleva fare una telefonata a casa, perché il bar all'angolo era quello dove andava sempre a fare. Prosegue verso un colpo il bar di telefono. Entra e rimane per qualche minuto dentro al bar. Ciao. Tutto bene? Sì. Sì, torno presto. Ci vediamo presto. Ciao. Poi esce e torna verso il portone. È tornato di nuovo al portone. Questa volta lo apre e si tira dietro la porta. E sale su per le scale, c'era la vecchia portineria, oggi non c'è più nessuno. E poi all'interno c'è un piccolo cortile con le tre scale del palazzo. Lui abitava la scala C. Lo vedo, mi sta passando davanti, mi dà le spalle. Aveva le radiografie, aveva un pacco con delle cose, delle rosette che sarebbero state il suo pranzo per il giorno dopo. Gli sento salire i gradini. Entra e sale i gradini, quelli che ti separano dall'ascensore. Arrivato davanti, chiama l'ascensore. Apro la porta, accendo la luce. Sei Wells Whiter? Esita, ha un attimo di esitazione, forse ha capito. Gli sparo. E allora cerca di correre via e arranca e va verso il cortile, ma tanto è ferito. Mi avvicino e gli scarico addosso tutto il caricatore. Al centro del cortile lo freddano con 12 colpi. Di quella sera io mi ricordo bene il sangue e le radiografie che erano rimaste a terra, le rosette che erano cascate tutte sporche del sangue di Wael, e c'era il suo libro, Le mille e una notte. Io gliel'ho visto in mano milioni di volte. Era stato trafitto da un proiettile. Era il 16 ottobre 1972 e lui era il mio amico, Wael Whiter.